giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Migliora la situazione delle imprese in regione. Secondo i dati CISL ci sarebbero meno aziende in crisi rispetto a 6 mesi fa, ma cresce il numero dei lavoratori coinvolti. Electrolux di Porcia ha trovato l'accordo sulla cassa integrazione. Nelle ultime 2 settimane di luglio ci saranno 2 o 3 giornate di stop della produzione e gli addetti lavoreranno 6 ore. Explora prima il ritardo della consegna del battesimo sarebbe dovuto ad alcuni pannelli non certificati presenti a bordo. Lo ha rivelato il Financial Times. Potenzialmente a rischio altre 45 navi di vari marchi già in attività. L'elettrocardiogramma è eseguito in farmacia ma monitorato a distanza dai cardiologi di Assugi. La sperimentazione comincia a Monfalcone. Trieste, la Galleria di Montebello riapre questa sera alle 9:30, previsto il limite di 30 km orari. Non si potrà transitare con monopattini, biciclette o a piedi. Intesa, Università di Trieste e Questura per accelerare le pratiche degli studenti extra UE. Siglato un protocollo d'intesa per agevolare il rilascio dei permessi di soggiorno. Il 24% dei lavoratori e delle lavoratrici ha subito molestie sul posto di lavoro, lo afferma una ricerca di LegaCoop del Friuli Venezia Giulia. È morto Herbert Rosenwirth, ex sindaco di Tarvisio, appena rientrato dal pronto soccorso dove si era recato per un malore, è caduto nella sua abitazione. Ben ritrovati da Dario Ronzoni e Francesca Vigori. L'economia in primo piano. CISL FVG registra un lieve miglioramento nella situazione delle imprese in regione. In quelle in cui è presente sono 61 le aziende in difficoltà a fronte delle 68 di 6 mesi fa, ma aumenta il numero dei lavoratori coinvolti. L'ultima fotografia scattata dalla CISL Friuli Venezia Giulia nelle aziende in cui è presente indica 61 imprese in difficoltà in regione, in calo rispetto alle 68 di 6 mesi fa, ma i lavoratori coinvolti nelle crisi sono passati da circa 8.000 ai quasi 12.000 attuali. Si tratta prevalentemente di aziende legate ai comparti metalmeccanico, legno, cartai, chimico e anche telecomunicazioni, con 510 dipendenti delle principali compagnie telefoniche a rischio, da Wärtsilä e Electrolux a imprese medio-piccole, diverse delle quali fanno parte dell'indotto dei due colossi, crisi conclamate e anche richieste preventive di cassa integrazione che auspichiamo restino tali, spiega in conferenza stampa il segretario regionale del sindacato Cristiano Pizzo, che su Wärtsilä ed Electrolux sollecita l'intervento di regione e governo. Per Electrolux c'è attesa per il nuovo incontro di domani al Ministero dell'Industria a Roma, nel quale ci si aspetta che l'azienda faccia chiarezza sulle sue intenzioni sul futuro del sito di Porcia. Sul fronte regionale serve intanto per la CISL una nuova alleanza tra sindacati, imprese e regioni per spingere su nuove forme di contrattazione e concertazione sulle varie partite aperte, a cominciare dai salari. In Friuli Venezia Giulia tra i più bassi del nord-est, inutile una legge sul salario minimo quando basterebbe applicare la contrattazione di secondo livello, di cui oggi beneficia solo il 20% dei lavoratori, afferma il segretario generale del sindacato Alberto Monticco, per il quale è finito il tempo dei protocolli che restano sulla carta. La contrattazione di secondo livello è indispensabile, a suo avviso, anche per garantire migliori condizioni di vita ai lavoratori e la formazione. A preoccupare il sindacato è anche il calo demografico, che nei prossimi 2 decenni farà scendere del 7% la popolazione attiva tra i 15 e i 64 anni, impattando sulla forza lavoro. Uno scenario di allerta che per la CISL richiede strategie trasversali, aprendo anche alla partecipazione dei lavoratori in azienda, punto su cui il sindacato è mobilitato con una raccolta di firme per dar vita a una legge di iniziativa popolare. Udine, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Electrolux di Porcia ha trovato l'accordo sulla cassa integrazione. Nelle ultime 2 settimane di luglio ci saranno 2 o 3 giornate di stop della produzione e gli addetti dello stabilimento lavoreranno 6 ore. Dopo una lunga trattativa, alla fine l'accordo sulla cassa integrazione all'Electrolux di Porcia è arrivato ieri sera al termine di un incontro tra azienda e organizzazioni sindacali. Le ultime 2 settimane di luglio, dal 17 al 28, la cassa integrazione sarà in prevalenza riduzione oraria, 6 ore in linea e 2 coperte dall'ammortizzatore sociale, con alcune giornate di chiusura collettiva. Da agosto in poi il sindacato è riuscito a ottenere dall'azienda l'impegno a usare la cassa a giornata intera, opzione che permette di ottimizzare l'uso dell'ammortizzatore, di cui restano appena 10 settimane, cioè 50 giornate residue. L'intesa prevede anche incontri periodici di monitoraggio, il primo in calendario il 2 agosto. Gianni Piccinin per la FIMCISL. Abbiamo blindato a futuri accordi per quanto riguarda la cassa integrazione a giornate di chiusura collettiva. Questo ci permette di risparmiare la cassa integrazione e cercare di portarci avanti il più possibile, perché l'autunno è incerto e soprattutto l'inizio del 2024 lo è altrettanto. L'azienda ci dice che ad oggi i volumi di settembre dovrebbero girarsi intorno ai 73.000, quindi significa non usare l'ammortizzatore sociale. Spereremo di avere anche a breve un incontro con il governo per dare un segnale rispetto al settore dell'elettrodomestico, che sicuramente è in crisi. Intanto domattina alle 11.30 a Roma è previsto un incontro tra ministro Ciriani, sottosegretaria Bergamotto e vertici Electrolux. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. A far rinviare la cerimonia di battesimo della nave da crociera di lusso Explora Prima, ordinata da MSC a Fincantieri, sarebbero alcuni pannelli isolanti installati a bordo che non avrebbero superato alcuni importanti controlli di sicurezza. Lo rivela il quotidiano online di trasporto marittimo Shipping Italy, che cita il Financial Times. Secondo le ricostruzioni, il costruttore italiano sarebbe stato informato a fine maggio che la società finlandese Paroc, che fabbrica i pannelli in questione, avrebbe perso le necessarie certificazioni di sicurezza. Nei giorni precedenti la consegna della nave a Monfalcone, Paroc aveva iniziato a richiamare i pannelli non conformi. In questa vicenda sia MSC che Fincantieri sarebbero parti lese, anche se sarà il cantiere a rispondere per il ritardo della consegna. Al momento ci sarebbero altre 45 navi con a bordo questi pannelli. Il gruppo Fratelli Kosulic ha varato il 26 giugno la sua seconda nave per il trasporto del gas naturale liquefatto, un nuovo settore di espansione per il gruppo con sede a Trieste, oltre a quello del trasporto di acciaio. Si chiama Paolina Kosulic, la nave appena varata in Cina dal gruppo triestino-genovese dei fratelli Kosulic. La Bettolina, insieme alla sorella Alice, avrà la funzione di trasportare il gas naturale liquefatto da un terminal alla nave che lo utilizzerà. Le due unità saranno consegnate la prima a settembre e la seconda a gennaio 2024 come parte di un investimento importante per il gruppo nel GNL a basso impatto ambientale. C'è stato nel settore marittimo un grande interesse per il gas naturale liquefatto e questo ha portato ad un numero importante di ordini di navi che funzionano a LNG. Soprattutto parliamo di navi portacontenitori e grandi gas carriers, però in generale anche le crociere, per esempio, hanno adottato questa tecnologia. Novità anche in un settore in cui da tempo opera il gruppo, quello del trasporto di acciaio. Con l'attacco russo all'Ucraina, una nave Kosulic, la Zarevna, è rimasta bloccata per più di 8 mesi nel porto di Mariupol. Queste incertezze, insieme a quelle legate alla pandemia, hanno portato il gruppo a diversificare gli investimenti. Abbiamo intrapreso un percorso che ci sta portando ad essere sempre molto più asset-based, quindi molto presente per quanto riguarda invece gli investimenti più capital intensive in asset, che possono essere sia navi e ovviamente centri produttivi, magazzini e via dicendo. Il gruppo ci tiene a sottolineare Timothy Kosulic alle sue origini a Trieste e qui mantiene la sua sede legale. C'è una forte volontà da parte nostra di mantenere vivo questo legame e di continuare a rinforzarlo con investimenti sul territorio e provando a creare sempre più impiego. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine un 61enne caduto con la sua bicicletta a San Quirino a seguito di una collisione con un altro ciclista lungo la strada provinciale 53. L'incidente è avvenuto attorno alle 7 di questa mattina. La sala operativa di emergenza sanitaria ha attivato automedica, ambulanza ed elisoccorso. Nella caduta l'uomo ha riportato diversi traumi e all'arrivo dei soccorritori era privo di conoscenza. Date le sue condizioni è stato disposto il trasporto con l'elicottero a Santa Maria della Misericordia. I sanitari si riservano la prognosi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi di incidente sono stati assunti dai carabinieri di Sacile. È stata individuata e sanzionata dalla polizia locale di Trieste la persona responsabile di aver abbandonato una serie di rifiuti, anche di grandi dimensioni, nella zona del campo Carro di Banne. Si tratta di una cittadina serba di 47 anni, residente a Trieste, che alla sera andava sul Carso con un furgone chiuso e senza particolari segni distintivi per scaricare rifiuti di ogni tipo. Tra questi c'erano vetri, tubature, materiali edili e plastiche. La donna è stata multata per un totale di 2.000 euro per abbandono di rifiuti e il transito in area boschiva, più con l'obbligo di ripulire l'area a sue spese entro 15 giorni. L'indagine è stata svolta con l'ausilio del Corpo Forestale Regionale e della Stazione dei Carabinieri di Opicina. Le 12.40, diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 28 gradi, mare calmo con temperatura di 25 gradi e 5 decimi, a Gorizia Pordenone 31 gradi, a Udine 30, a Tolmezzo e a Tarvisio 28 gradi, a Forni di Sopra e a Sappada 25, a Piancavallo 22, sul Monte Lussari 20 gradi, sul Monte Zoncolan 19, a Lignano e a Grado 28 gradi e la temperatura del mare in queste due località è di 28 gradi. Le previsioni per le prossime ore: su pianure e costa cielo sereno con venti di brezza e caldo afoso di pomeriggio in pianura e la sera sulla costa. Sui monti dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile e sarà possibile qualche locale rovescio o temporale che non si esclude possa estendersi a qualche zona di pianura in serata. Lo zero termico è oltre i 4.000 metri. È ripreso da parte della prima commissione integrata l'esame della manovra di assestamento regionale che approderà al vaglio dell'Aula il 25 luglio. Si apre con una relazione dell'assessore regionale all'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro in prima commissione integrata la seconda giornata di lavori in consiglio sull'assestamento di bilancio. Una manovra estiva ricca come mai prima, oltre 1 miliardo di euro. A tenere banco sono soprattutto la questione dei dragaggi dei canali a Monfalcone e a Marano Lagunare, ma anche gli investimenti per la transizione ecologica e la produzione di energia verde. Ieri dalla Commissione era arrivato l'ok alla prima parte dell'assestamento. Aiuti saranno destinati ad agricoltura, malghe, agriturismi, viabilità forestale, riserve e biotopi. Un altro emendamento da 1,5 milioni di euro garantisce risorse ai processi di digitalizzazione delle farmacie. Prevista anche l'assegnazione di borse di studio per i contratti di specialità medica attraverso la cancellazione, tra i requisiti, dei 3 anni di residenza in regione e con la previsione di una penalizzazione per i medici che dovessero poi scegliere di esercitare la professione fuori dal Friuli Venezia Giulia. Una novità questa che ha infiammato gli animi di alcuni consiglieri. Definita anche la destinazione di 140.000 euro in 2 anni per una collaborazione con Agenas, l'Agenzia dei Servizi Sanitari del Ministero, su aspetti organizzativi, gestionali, economico-finanziari e contabili utili a rafforzare il servizio sanitario regionale. Tra le altre misure approvate anche l'assegnazione di risorse per le comunità di montagna del Natisone e del Collio e un contributo da 400.000 euro all'Istituto di Cultura della minoranza slovena. Davanti ai consiglieri oggi, oltre all'assessore Scoccimarro, riferiscono anche Cristina Amirante, che ha la delega alle infrastrutture e territorio, Alessia Rosolen, lavoro, istruzione e università e Sebastiano Callari, assessore al patrimonio. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'elettrocardiogramma fatto in farmacia, monitorato a distanza dai cardiologi di Assugi. L'azienda sanitaria ha annunciato l'avvio della sperimentazione del progetto all'interno dell'implementazione dell'attività del Dipartimento dell'area esontina, presentato oggi a Monfalcone. Sentiamo i dettagli da Andrea Longanesi, direttore sanitario di Assugi. Dottor Longanesi, quali sono le novità che illustrate oggi? Oggi illustriamo soprattutto un metodo di presa in carico del paziente globale. Il paziente che ha molte patologie viene preso in carico in modo omnicomprensivo, in modo che la parte diagnostica e la parte terapeutica vengano coordinate fra di loro su tutte le patologie che il paziente ha. Questo è molto importante per la presa in carico del paziente. Il tutto con modalità smart a distanza per ridurre anche i tempi di attesa. Sperimentiamo anche device al domicilio, con quindi tablet al domicilio per i pazienti che possono utilizzarli, in modo da poter fare anche a distanza un controllo a distanza del paziente, un monitoraggio a distanza del paziente. Questo non significa impoverire la sanità locale? Assolutamente, significa arricchire, assolutamente arricchire, perché mettiamo a disposizione equipe integrate ulteriori rispetto a quelle che c'erano già, quindi attività ulteriori. Il paziente poi viene preso in carico e tutte le visite, gli esami vengono prenotati direttamente dalla struttura e non attraverso il CUP, quindi con tempi molto più brevi. E per il territorio isontino cosa cambia? Per il territorio isontino? Cambia la presa in carico del paziente con questa modalità e quindi una possibilità per il paziente cronico, pluripatologico, di essere seguito dai servizi direttamente, senza bisogno che lui passi da un servizio all'altro, vada al CUP, ritorni a un altro servizio, faccia la prenotazione delle visite di controllo, perché viene preso in carico a monte da noi. E quali saranno invece le novità per quello che riguarda le farmacie? Noi stiamo facendo questa sperimentazione su 38 farmacie di Ajuggi, dove si farà l'ECG in farmacia e verrà letto dai cardiologi da remoto. Quindi il paziente potrà andare direttamente nella farmacia sotto casa, per le farmacie aderenti, e avere l'ECG refertato a distanza. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La galleria di Montebello a Trieste riaprirà al traffico veicolare oggi a partire dalle 21.30. La chiusura del tunnel, un'infrastruttura già da anni in situazione di grave degrado, durava dal 16 maggio dell'anno scorso e in questi 14 mesi erano state molte le polemiche per i continui slittamenti di lavori che sarebbero dovuti durare in tutto 40 giorni. Nell'ordinanza di riapertura si legge che il limite di velocità per percorrere la galleria è fissato in 30 km orari. Inoltre, per il momento il traffico nel tunnel sarà interdetto a pedoni, monopattini e biciclette. Le corsie ciclabili realizzate ai lati della carreggiata diventeranno percorribili quando il cantiere sarà ufficialmente chiuso. Quanto al trasporto pubblico, richiederà qualche giorno la ripresa per modificare turni, orari, fermate e tabelle informative. Un lavoratore su quattro avrebbe subito molestie sul posto di lavoro, è quanto emerge dal progetto messo a punto dall'Egecoop Friuli Venezia Giulia con l'INAIL regionale per individuare e prevenire i fenomeni di violenza e molestia sul lavoro. Secondo la ricerca, inizialmente solo il 16% degli intervistati ha dichiarato di aver subito episodi di molestie, ma la percentuale sale al 24% dopo aver ascoltato esempi di molestia da parte dell'intervistatore. Il 46% le ha subite da colleghi o da altro personale interno all'azienda, mentre per il 54% le molestie provengono da clienti o, nel caso di servizi alla persona, da pazienti e loro familiari. Le più frequenti sono battute o gesti volgari, ma sono numerosi anche i contatti fisici non richiesti e gli apprezzamenti sul corpo. Servono buone pratiche, ha sottolineato Legacoop, per migliorare la situazione sui luoghi di lavoro. Presentata l'offerta formativa dell'Università di Udine per il prossimo anno, le immatricolazioni vanno al via da giovedì. Tre nuovi corsi di studio dedicati a scuola, industria ed Europa, tasse invariate con iscrizione gratuita fino a 26.000 euro di ISEE, più di 80 corsi offerti tra triennali e magistrali, 7 in inglese, 2 in più degli anni scorsi. Sono alcune delle novità del prossimo anno accademico dell'Università di Udine. Ci si potrà immatricolare da giovedì 13 luglio e il processo di iscrizione sarà tutto online. I tre nuovi corsi sono pensati per rispondere alle esigenze di occupazione del territorio. Dunque, sarà attivo il nuovo corso triennale in scienze dell'educazione per formare la figura di educatore professionale socio-pedagogico e quella di educatore nei servizi per l'infanzia. Al via anche la laurea magistrale in inglese in ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale, in stretto collegamento con le richieste del sistema economico produttivo regionale. Infine, un nuovo corso a vocazione internazionale, cittadinanza, istituzioni e politiche europee nell'area di scienze giuridiche. Inoltre, il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali si riorganizza con 5 nuovi curricula dedicati ad alimenti e nutrizione, alla biodiversità e al recupero ambientale, alla tutela e al benessere animale. Sarà inaugurata poi una Summer School di orientamento universitario, 15 ore di attività per permettere agli studenti indecisi di capire meglio il loro futuro. Infine, tra le novità, un nuovo servizio dedicato al benessere e alla crescita personale degli studenti di tutti i corsi di laurea, con focus sul metodo di studio, lettura condivisa e tecniche di rilassamento. Udine, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il questore di Trieste Pietro Stuni e il rettore dell'Università di Trieste Roberto Di Lenarda hanno firmato un protocollo d'intesa per agevolare il rilascio di permessi di soggiorno a studenti, dottorandi, studiosi extra UE che collaborano con l'Ateneo Giuliano. L'accordo, spiega Stuni, favorisce i tanti studenti stranieri a Trieste e prevede l'organizzazione di giornate apposite per la consegna dei permessi di soggiorno. Per il rettore è un primo passo nel piano di accoglienza dell'Ateneo, che prevede anche un accordo con l'Agenzia delle Entrate per far ottenere agli studenti il codice fiscale in tempi brevi. La protesta continua contro l'accorpamento di 2 consultori familiari su 4 a Trieste. Questa mattina un presidio davanti a quello di San Giovanni, che dovrebbe chiudere assieme a quello di San Giacomo. Antonio, Renato, Francesca, Anna sono i nomi sulle mani colorate, mani di persone per le quali il consultorio familiare rappresenta un sostegno, un riferimento insostituibile per la famiglia, la donna, l'uomo e i giovani, secondo i numerosi cittadini e cittadine, ma anche associazioni e gruppi che supportano la battaglia del Comitato di Partecipazione per i Consultori Familiari contro la decisione della SUGI di chiudere 2 dei 4 consultori attivi a Trieste, quello di San Giacomo, sede del presidio, e quello di San Giovanni, una mobilitazione che prosegue da settimane. Maria Serena Orel. È stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità negli anni scorsi una ricerca ed è emerso che sono delle servizi di grande qualità che ancora per questo motivo è davvero incomprensibile perché la SUGI voglia chiudere, quindi noi diciamo no alla chiusura dei consultori. La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante la vicinanza dei servizi sanitari, sostiene il comitato, per il quale il consultorio rappresenta un servizio trasversale che ricopre tutte le classi sociali. Maria Cristina Marzola. Oserei dire anche per i maschi, che molte volte non vengono citati in queste cose, per i giovani che hanno bisogno di sostegno in tutti i sensi, sia psicologico che sanitario. E quindi direi che il consultorio è veramente un luogo di tutti e che deve essere conservato. Il comitato ha chiesto ed ottenuto un incontro con il direttore generale di ASUGI, Antonio Poggiana, che si terrà domani. Trieste, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. È morto nella notte all'ospedale di Dolmezzo Herbert Rosenwirth, già sindaco di Tarvisio dal 1990 al 1993. Aveva 82 anni. Qualche sera fa aveva accusato un malore e si era recato al pronto soccorso da cui era stato dimesso. Una volta rientrato nella sua abitazione di Camporosso è caduto e riportato un trauma cranico. È stato portato in ospedale a Dolmezzo in terapia intensiva, ma non si è più ripreso. Rosenwirth era molto conosciuto a Tarvisio durante il suo mandato, affrontò una questione molto delicata, la chiusura della miniera di cave del Predil e l'occupazione del sito da parte dei lavoratori. La protesta si è conclusa dopo un braccio di ferro di 17 giorni con un accordo per il riassorbimento di parte delle maestranze. E si intitola Basilica per tutti, il progetto messo in piedi dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia. L'obiettivo è includere, con visite guidate apposite, anche visitatori con disabilità come ipo non vedenti e ipo non udenti. Il progetto sarà presentato oggi alle 15:30 in una conferenza stampa alla Basilica e ci sarà anche un pannello tiflologico che va incontro alle necessità di ipo vedenti che rappresenta il mosaico del nodo di Salomone. Ne abbiamo parlato con il direttore della fondazione, Andrea Bellavite. La basilica deve essere per tutti, come ogni patrimonio UNESCO, perché condivide anche con il resto delle zone archeologiche di Aquileia questo onore di essere patrimonio UNESCO. UNESCO vuol dire patrimonio di tutti. Ciò significa che non ci deve essere alcun ostacolo di alcun tipo, fisico o psichico, che in qualche modo possa impedire l'accesso e la conoscenza e l'usufrutto di questo luogo meraviglioso. La nostra linea, il nostro obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le già esistenti realtà che superano le barriere architettoniche con gli scivoli, con la possibilità quindi di deambulare oggi come oggi in quasi tutto l'ambiente basilicale. Ma vorremmo soprattutto avviare un percorso di formazione per guide, anche per guide non vedenti e non udenti, che possano essere in grado e capaci di poter far cogliere la bellezza straordinaria che la basilica ha anche a coloro che non possono vederla o sentirla con i sensi dell'udito e della vista. Anzi, loro stessi potrebbero aiutare a capire e a conoscere la basilica in modo migliore a chi normalmente crede di vedere e di capire tutto. Sarà presentato anche il pannello tiflologico del mosaico Nodo di Salomone. Il mosaico è stato offerto dal gruppo mosaicisti di Ravenna. È un nodo di Salomone, uno degli elementi che ricorrono più frequentemente all'interno dei mosaici del IV secolo della Basilica ed è fatto in modo tale che per delle persone non vedenti può consentire di comprendere come è fatto attraverso il rilievo dei mosaici. Le pietre sono state tagliate e sono state raccolte in Aquileia e nella zona circostante, proprio come erano i mosaici fatti all'inizio del IV secolo. Quindi un elemento didattico di grandissimo rilievo che può servire appunto sia come accoglienza e inclusione delle persone non vedenti, ma anche dei bambini, dei ragazzi, dei giovani. Nominato il nuovo presidente della cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, si tratta di Sandro Caporale, vicepresidente regionale di Manager Italia, per la prima volta un tecnico. Tra i progetti che dovrà seguire il trasferimento della gestione diretta del mercato comunale, l'esternalizzazione di alcuni servizi amministrativi e il riconoscimento europeo avvenuto nei primi mesi del 2023 del passaggio da cooperativa a organizzazione di produttori. Era questa l'ultima notizia del nostro giornale radio. Da Dario Ronzoni e Francesca Vigori, che lo hanno redatto e condotto, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Carlo Morello e Laura Sarasini in redazione, grazie per la cortese attenzione. Ancora a tutti voi una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.